chi è? Avanti, chi è? Chi boia? E beh, uscio buco. Sei basso me. E perché sei basso? Ah? Perché sei basso? Ma lo vediamo lo sei, in collina sei. Vai, sei così basso. E senti? Antonello. Antonello. Sì. Mi senti? Sei un bel basso, ti sento, ma molto molto basso. Sei un bel basso, eh? Io sono un bel basso, tu sei basso. Sì, un bel basso. Ma tu dove diavolo sei? In qualche cantina? C'è qualche stazionario. Dove? In camera? Ora. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Hola. Hai capito? Beh, vediamo c'è. Antonello. Sì. Ballare, c'è cazzo, ma non tende. Se sei basso, è colpa mia. Adesso ti sento leggermente meglio. Beh, con l'antenna l'altra sono. Con l'antenna? Hai capito. Oh, cosa c'è? L'antenna in gomma? No, l'altra antenna. E dove ce l'hai messa? Dentro lo salvabagno? Sì, quella che mi hai dato tu. Sì, ma non si scende giù mai, boh. Non esce? Sì, signore, uno solo, è strano. Sì, è un bel basso, L'altra volta eri più forte, adesso è basso, un bel basso. Appunto per quello, boh. È strano che mi senti così basso. Dipende da te, non da me. Vabbè, cosa vuoi di qua? E qua è come gira il vento. Guarda come gira il vento, perché fuori ce l'hai messa. Se gira metrale si sente male. Se gira... non c'è vento si sente bene. E me ce l'hai messa dentro al bagno. Quando fai la cacca esci bene. Quando non la fai, che sei stitico, esci male. Appunto perciò. L'uomo lupo fa così. Prima si mette a urlare e poi si riposa. Allora, oia. Aspetta che c'è stazionale, non ho capito perché. Controllo. Aio, è nulla, ragazzi. Vedi? Adesso ci siamo. Stazionale zero. Adesso vedi che ti sei alzato. Mi sono alzato adesso? Guarda. Di peso ti sei alzato. Il piede dietro era. Il piede dietro. Mettilo a posto col piede, cazzo, ce l'hai fratturato. Il piede non viene. Ho capito che è il piede, però ho detto, mettilo a posto col piede che ce l'hai fratturato. O altra cosa ci hai fratturata tu. Una canna. Un sciabucu. Allora, bubu, cosa avete? Cosa hai combinato? Tu la sono a mal di collo, sono, da ieri. Mal di collo forte, c'ho scuffio nelle fianchette, infatti è un fianco al centro. E come mai il mal di collo? Perché sono andato a fare la spesa, poi sono passato dal fattore, sono andato lì, mi sono bevuto la birra, poi abbiamo smontato un pacco battiere della spesa a polvere e poi sono salito a casa. Ma la notte ce l'avevo appena. Il domani mattina manco qualcosa sono riuscito a farmelo passare. Invece noi la mattina, come siamo arrivati, ci abbiamo trovato la sorpresa. Il bagno in casa da gatti. Come mai? Tutto intasato. Il bagno delle donne, cazzo, era completamente intasato. Non la porta, cosa ce l'ha buttato? Il coso vento? Questo è un vizio che c'hanno. Adesso c'è il cestino a fianco, no? Non possono, cazzo, c'è anche scritto. Per ogni cosa buttare la roba dentro il cestino, no? Mi pigliano il cazzo che si buttano un cazzo, che cazzo di che usano le donne, cazzo, dentro il vate, hai capito? Già ho capito, evidentemente c'aveva il mese quello. C'aveva il mese, e cazzo, ma non ho capito, cazzo, che mi devi buttare quella roba dentro il cesso, cazzo, non ho capito, che entra già tutto, cazzo. Ma sono arrivati, cazzo, c'era la sorpresa, abbiamo dovuto smontare bidet, tubi e tutto quanto, cazzo. Ne abbiamo finita, erano quasi l'una e venti. Tutto ho dovuto smontare, così è. E tutto quanto abbiamo dovuto smontare, e allora? E beh, purtroppo, cazzo, era intasata fino in fondo, cazzo, abbiamo attaccato il compressore con quelle pompe e per fortuna siamo riusciti a stapparle. Quando si buttano la roba lì è un casino, eh. È un casino, sì, Antonio, eh. Quando buttano, cazzo, i tampax o cosa cazzo è, assorbenti, cazzo, qua. Salvati perché è un casino. Basta dirlo, guardi signore, se deve fare, eh? Però non butti quella roba lì perché si è allagato tutto, dici. Basta fare chiaro. C'è il cestino, lo butti lì, signora, e se ne sbatte. Ho detto, cazzo, c'è anche scritto, per ogni cosa che usate, c'è il cestino apposta. Cazzo, più chiaro di così, Antonio. E appunto per quello. Cazzo, adesso lo dobbiamo mettere nella porta, cazzo, almeno lo capiscono. Hai capito? Antonio. Ciucucciu. Antonio. Dimmi. Ma dove vedi? Ho attaccato un secondo la panica perché mi è uscito l'archito, ho capito cosa devo, sia forse ho toccato qualcosa. Ma già non succede niente. Ho capito. Allora lascia vedere un po'. Ciucucciu. Ora, adesso ci siamo. Giuseppe? Ehi, yeah, dimmi. Ecco, adesso stasera non è più, adesso sono a posto. Ok. Sai che quello là, quel telefono che mi avevi dato tu, Antonio, quello Samsung, non funziona più, non funziona. Come mai? Non accende, non vuole accendere, niente. Ho provato anche a cambiare la batteria, però non vuole accendersi, non so cosa c'ha. La pazzina, vuol dire, sono tutte le crisi politiche. Niente, invece, non lo so cosa cazzo gli ha preso, Già c'è un telefonino in giro, c'è un negozio, c'è, ho visto, in via Catalocchi, la barriera, ve l'ho visto. Vendono smartphone, Samsung, di tutto, a seconda mano, garantito. E dove in via Catalocchino? Vicino dove, ti ricordo dove c'era quel negozio dove faceva impianti per auto, lì l'ho visto l'altro giorno. Ah, lì l'hai visto. E adesso già, quando è, ci passo, voglio vedere cosa c'ha. Rimane prima della frutta e verdura. Ho capito, quello... Sette poi, dove cavolo è? Eia, quello vende telefonini e smartphone la seconda mano, c'era scritto fuori, tu cazzo. Garantiti. Quindi, se vanno a poco prezzo, per 50 euro te lo prendi così. E adesso vediamo, Antonio. Vediamo, a prendere si fa poco, e di là che mancano, Antonio. Già lo so, ma siamo tutti così in crisi. Se non cambiano le cose, se non si mettono d'accordo, se non fanno questa cosa qua, credito di cittadinanza, dunque a te ti dovrebbe toccare intorno agli 800 euro. Speriamo. Invece per due persone mi sono 1145, mi pare. Cazzo, per i lampi? No, me li bacio, me li tengo. Ma chi c'ha pili a carico pure o da solo? No, da solo se ne toccano intorno ai 7-800. In due persone sono 1000 e qualche cosa. Speriamo che la cosa vada in porto. Spero di sì, che si mettano d'accordo. Che 5 Stelle ce la faccia entrare del tutto. A Sassa di Salerno sta tranquillo che già entrano. Perché gli hanno dato lo sfratto al sindaco. Gli hanno detto di andarsene. A vedere cosa cazzo ci fa lì. Ormai non ci fa più niente. Non è più consolidato, capito? È una nullità ormai. Quindi gli hanno detto di andarsene. Sì. Partirà il sindaco, vice sindaco e tutti quelli del PD, proprio quelli hanno carta bianca proprio per andarsene via. Sì, esatto, sì, gli avevo già detto, adesso ci sono le regionali, dice, ormai vi facciamo fuori, quindi è tutta roba nostra la Sardegna. Dice, fate le valigie e andatevene, anche a Pigliaro mi hanno detto, ha mandato una lettera a lui, a Pigliaro e a Ganao. Cosa devono fare? Non ho capito. Cazzo, loro erano convinti che il PD vincesse domani. Votate a Renzi, domani. L'hanno fatto fuori già anche a lui, che cazzo, non hai capito. Ormai il PD non esiste più. Vogliono già cambiare casacche, non hai capito niente, no? Per avere la poltrona, per avere la pensione, stanno già cambiando casacca più della metà. Non l'hai vista. E tutti questi adesso si stanno aggregando a 5 Stelle perché sanno che 5 Stelle è la potenza adesso. Adesso vedremo un po' cosa vogliono fare, cosa decideranno di fare, E adesso vediamo. Vediamo un po', l'importanza è che noi, Antonio, ci accettino le domande e portiamo il curriculum e Modè Luise e da voi ci diano quello che ci spetta, poi degli altri non ci interessa niente. E per quello che hanno votato tutti i 5 Stelle, li hanno operato, perché ormai si sono rotti coglioni i santi. Hanno capito che venivano solo a prenderci per il culo. Quindi fu lo sfratto adesso, si arrangiano. E adesso... Se vince il 5 Stelle, oppure l'altro, Salvini, tutti gli immigrati fuori dalle scatole, fuori. Ci mettiamo i cinesi. No, anche i cinesi fuori dalle scatole. Tutta la gente in immigrazione fuori dalle scatole, fuori, tutti fuori. Dai, i cinesi ti fanno i massaggi, perché li butti fuori? No, non hai capito che non vogliamo gente straniera noi, nella nostra Italia. Non ho capito che quella è nostra, non è di questi cavolo di marocchini o cosa cavolo è. E questi, comprati, vai, ho detto, vai. Che cazzo vuoi comprare? Vai, e via, che non ha giordinato, sono peggio di te. Non potevi comprare da qualcosa, ca. Sì, con il dinaro che non va giù, cazzo, Antonio, mi metto a comprare la roba, ma non te nandi, non saranno. Già lo so. Se vuole gliene vendo io a loro, se vuole. Li vendo un po' di roba, se ne vogliono, a me no. Se ne esco pure dalle scatole. Dimmi, se vuoi. Se vuoi, ho detto. E ne prendiamo noi di roba a questi qua, ma non ce le togliamo fuori dalle scatole a questi. E dalle balle, vorrei dire. No, dalle scatole, no. Non si dice, in frequenza non si dicono parolacce, dalle scatole, fuori dal nostro paese. Ah, ma peggio, se ne viene peggio. Perché sono tutti quanti usciabuchi. Tutti usciabuchi. Bubu. Hai visto la retata che hanno fatto nello sciopero, cazzo, i poliziotti, cazzo, col primanganello, cazzo, a destra manca, cazzo, si sentivano i colpi, sino a qua. Ma dove? A Sassari? No, a Sassari, è una zona di dove era, non so se era Roma o Milano, non so se c'è quella zona lì, o Roma o Milano, non lo so. Sì, sciopero c'è, i senegalesi più che altro. Manifestando, capito? Non era sciopero domani, mi pare. Facendo manifestazione, ma sono beccato più manganellate che altro. Questa è la mia abitudine, quando prendo, anche loro prendono colpi, già si arrangiano, piano, già prendono l'abitudine. Se fanno peggio, se no, se la piglia tutto quanto di questo. Allora, Dice c'è qualcuno ancora nuovamente malato, Chi? Chi? Vino Bianco. Ah, vero, sono malato, sono appiccicato. Ho detto, tu cazzo, non è che... A te te l'ho detto che ci vuole la medicina vitamina M. Scusa, dai, non mi chiede, quella dell'asino. Io ho detto, a te ci vuole, ho detto, la vitamina M. E cosa vuol dire? Del marchio sardo. Sassizzone. Maschio sardo. Provi una di quella, una Viagra, e sai che sei a posto per tutto, per quanto campi. Disgraziato che sei, Quindi il bianco non mi ha fatto nessun effetto. Ci vuole Viagra, ci vuole. Vitamina M ci vuole. Bubu, conti Zemmo. Ti mangio pigliato un coso l'altro lì. Tutto sudato, sono andato sudato l'altro fratello, poi ho bevuto una birra, dopodiché è rimasto cosomi. Franco, mi ho pigliato un'altra, poi ho preso il tram e sono salito a casa. Ero sudato ancora, cazzo, non hai atti dal collo, mamma mia, non ti dico nulla. Ma con la pastiglia mi ha fatto niente. Ma vedi come ti sei coricato, Antonio. Il discorso è che come la posizione e poi ha fatto l'effetto suo quello. Io mi sono coricato, vabbè, col cuscino alto, quindi deve essere quello anche. È solo un fiacco, mi fa male il braccio, mi per appare il braccio, quando lo muovo, i muscoli proprio sotto al collo, e il collo ce l'ha appena gonfio, no? In un fianco. E invece a me mi fa male la coda, mi fa male. Fa male il ginocchio, altro che, cazzo, come questo cambiamento del tempo, altro sento sotto il menisco, altro a dolore che non posso stare, hai capito? Devo avere pazienza, altri due mi sembrano un altro giorno, poi ci abbiamo 21 gradi. Speriamo. Ma dice che da domani non va a mettere a fare brutto. Domani c'è il nuvoloso, poi dopodomani fa bel tempo. Capito, fa 21 gradi, poi mi sembra dura due o tre giorni, dopodiché arriva un'altra passata di coso, dal 14 al 20 di marzo, di ghiaccio. Vabbè, non ce l'ha contenuta, riportate, stiamo coricati nel nostro lettino e al calduccio. Già c'è una stufa automatica io qua, si mette sotto. Io già lo so. C'è l'aspirazione totale. No, si mette proprio sotto, si mette. Mi gira dall'altro fianco, passa dall'altro fianco, capito? E mette le gambette sopra il braccio e lo senti russare come un porco. Anche lui russa. E allora certo che russa. C'è un paio di giorni che dorme con me. A me no, cazzo. Parte il quartetto, eccetera. Tu e lui, cazzo, a russare forte. No, russo io, non ti preoccupare. A me quello c'è di buono. Però a me la notte mi si alza l'attrezzo. Maledetto, cazzo, maledetto. Non è colpa mia, no, scusa. Il barrato. Va in automatico, già lo sai. È una questione di pressione del sangue. Pressione... altro che pressione, oi. Allora, bubu. Mi sa che tu rimani a bocca asciutta, Antonè. Non ne ho problemi, già c'è l'amica. A bocca asciutta, che ha detto, no, è chiusa le gallerie, sono chiuse le gallerie, dunque, da me non metti, il mattone non ce lo metti. Sì, c'è l'amica sua, non è problema per quello. Mi ha chiamato lei l'altro giorno. E chi è l'amica sua? Ero quasi un anno, non la sentivo, non la vedevo. Mi ha chiamato lei su Facebook. Ma la conosco, no? No, non la conosci tu. Ma io penso lei conosca te comunque. Perché ha sempre abitato lì al centro storico, quindi quando andava a pigliare le sigarette, passava da te. Oh, sarà vero, già la riconosco, può darci, Basta che entri su Facebook, nelle amicizie che ho io, e già la vedi subito. C'è la squadra della Juventus, capito? Come cosa. Ma come si chiama questa? Rita si chiama. Rita. Rita? Piga. Piga? Allora già vista e conosciuta pure. Già la conosci senz'altro, sei abitato lì via San Donato, quindi figurati tu. Alla fine di San Donato abita, no? Giusto. Prima della Fainé. Io ho capito, già la conosco. Già è una vecchia conoscenza. Una vecchia fiamma. È una vecchia conoscenza. Il barrado. Tagatene. Allora, bubu. Non devi andare da nessuna parte stasera, no? Devo passare dallo spì a prendermi il coso, il formaggio che non ne ho. E poi il coso, qualcosa per stanotte, e basta. Stavo aspettando un liberato che veniva, stamattina invece non c'è venuto. Tutta la mattina si rabbia in culo. Prendo, vado e prendo quella roba e poi me ne rientro a casa veloce. Stamattina sono uscito, cazzo, arrivo lì, mancava la luce, cazzo, la luce spin. Tutti dentro sequestrati erano. Davvero? Ehi, c'erano più di 60 macchine, tutte parcheggiate, tutti dentro erano. C'era vigilanza notturna, non ha fatto muovere nessuno perché dovevano... non funzionavano le casse, quindi a un certo punto... Quando manca la corrente e così le chiusure sono... Quando parte, quando c'è la corrente, apro quando c'è corrente. Allora, sono arrivato di me, dice, guardi che è chiuso. Come sarebbe detto chiuso? Dice, mancata la corrente, non si sa che ora arriva, mi ha detto. Cazzo, giurito, boh. Tutti dentro, tutti sequestrati dentro, cazzo. No, hanno chiamato i pompieri. Non lo so se hanno chiamato i pompieri, ma quell'affare c'ha il coso manuale, non c'è bisogno dei pompieri, le aperture... Non sono, a parte di essere automatica c'è anche il manuale, basta, c'è lo sblocco, c'è, hai capito? Ho capito, vabbè dai, ci sentiamo più tardi, se continui dai, che devo andare in bagno. Buona cagà, dammi. Altrettanto. Non sono ancora andato io a fare la cacca, l'ho fatta ieri. A me mi viene, dopo prendo il caffè, mi viene lo stimolo. Attento, non sai che sia, si sollevi l'uccello e te lo tagli il coso del cesso, hai capito? Perché lui sbuca da sotto, tra il cesso e la tavola, va sotto e poi tu lo mangi il cane. Che non ci sia qualche serpente. Quello entra in culo il serpente. A dopo, là, più tardi, cazzo. Ehi, a dopo, ciao. Chi è? Io so. Dammi un rapporto, fa la cortesia. Fondo scala o fa? Radio 5. Scala? Ehi, fondo scala. Bene, dai, ho costruito un'antenna in rame. Esci benissimo, sei fondo scala, figurati tu. Sei un bel forte. Senz'altro aver ascoltato anche Giuseppe. Antenna in rame sto facendo. Ho costruito un'antenna in rame, la stavo provando appunto come stava andando, dai. Cioè, sta andando bene, già. Quella cosa costruiscitimi, quella bazooka, già è una cazzata a farla, ricordati la misura è 5,50 m. L'ho già fatta, Tonè, però non mi rende, vorrei attaccare alla massa fuori. Certo che devi agganciare alla massa, tu mi hai visto una bazooka senza massa, boh. Sì, l'ho detto, la stavo provando, l'ho già fatta, 5,50 m. Infatti te la volevo portare a vedere se c'era una stazionaria. Ci vuole la staffa, ci vuole, non puoi vederlo così. E ti prendi una staffetta in... da cosa? La brick, come ti ho detto l'altro giorno. Costa una cazzata, costano quelle staffette. La ganceria dove c'è il coso lo stenditoio e sei a posto. Ci che rende più del dipolo? Vende più del dipolo, sì. E la prova? No, l'ho già costruito, l'ho fatto 5,50 m, giusta. Così ho fatto io quella di Giuseppe. Di Giuseppe, sì. Che poi Giuseppe l'ha regalata a fratello. Quando l'ho provata usciva benissimo di qua. Uno e uno di stazionari. Quando me l'avevano regalata a me c'aveva 2,5, 3. Poi uscivo a cavarne i piedi finché non l'ho preso, l'ho smontata. Ho preso il rame, l'ho fatto la misura giusta, 5,50 m, con filo elettrico. Poi ho preso e l'ho ricoperta. Gli riaggancio la staffa, uno e uno, in tutti i canali. Perfetta usciva. Guarda, la provo, da un attimo, se mi dai un secondo, la provo sul 20, dai. Vabbè. Questo... 1, 2, 3, 4, 5... Questo va bene, dai. Allo. Sono ci sei? Ehi, ci sono, dimmi. Ho già fatto, l'ho fissata, Fissata l'hai? Aspetta, la proviamo un attimino sul 20. Ehi, sta andando sul 20 allora. Chi è? Chi è? Ciucchiù. Curire, dormito sono, sentendo ti scuccio, è sicuro, e se vuoi che in culo diceva quello, sì d'accordo, appoggio, ehi, bene, hai fatto bene, mi hai risparmiato un po' di soldi, 10 o 2, hai fatto l'affare, già vanno bene, come non ti senti? Ah, parli con una scorticollata, la sai cosa bella, bubu. Ti barrende. Aspetta che te ne... Che sto facendo una cosa che... Quanto sono in Cino? Fino che ero in Cino era... In bagno mi ha detto che è andato. Ecco, domani. Uiuia. C'è uno che gli è uscito il ruttino. Salute. C'è uno che ha mangiato peperoni, sta digerendo. Ho capito nulla. Tu, 5 per 1 e 5. Sì, no, senegalese. Io gli dico che non voglio che andato da senegalese, mamma mia, meglio niente. Facciamo questo bambino quando vuoi, perché poi si ingelosisce quello. Beh, morto sì. Non sarei macco, no? Già basta quelli che c'ho. Sei fresco tu e lui. Lasciare il fumo. Allora, ce lo dico al sindaco. Basta che sia rimasto a canestre, già vanno bene. Ui. Sei macco, si semo. A voglia, c'è stata una famiglia intera. E aumenta. Aspetta che sto facendo... togliendo la massa in un barattino, 2 minuti, poi ti rispondo. È bello. Chiamari. Dammi tu sì, chiamari. Già, sono dormito. Ma il sole c'è, giovani? Dormito solo. Ma il sole c'è? Eia. Sole bollente. Dormi. Ah, bollente il sole, giovani. A letto sì. Il sole bollente, non letto no. Bollente il sole, giovani. È meglio così. Pare che sia andato un burretto, mi. Addirittura. E lui da, due. Vediamo che ne voglia l'usori. Ah? Hai giudito, vediamo che ne voglia l'usori. Ehi. Ma chi sono, non vengo. È graziale intesa. Non vengo. Ancora domani quel buchetto, Non ho finito ancora. Atta. Ciao, fammi che va. Abbi per me, fatti, ma niente, e fermi. Ma si Mario? Poi, cari due ragazzi, mi sembra che era un bui. Attento, Graziano. Ma, non è che c'è Mario, che ho sentito. Giovanni. Oh. scritto, non è che cazzo di Mario. No, l'ho sentito al telefono, la 1:15 mi sembra, Allora c'è ancora a fare del rubuchito. Ci vede, a mangiare il gruppo ha deciso ancora e non agare muovissi. Allora, per carità, per uscita danzura, mi do ancora a travaglio, mi dico Mari, Luca. Cos'è? Ho detto che è ancora a lavoro, Luca. Non l'ho sentito. No, credo. Ah, chi sarà a casa, sarà. No. Ancora lavoro. Stamattina ci sono passato io. Addirittura. Scherza. È impegnato fuori allora, E allora? Sta andando da fare, fa bene, dai. E tu si va alla villa in Chivi, a lavorati dozzi. Allo gufeo però i Chivi, scherza. E lì sta costruendo, Giomari. Mamma mia. È un bel dumido Chivi. Lasciamo fare, vuol dire in Chivi, ci vuole qualche quattro su questo per la pelle. Certo, è troppo umido, grazie. E a giù c'è un fosso che avete fatto. Il fosso? Ehi, di Savogna. Vabbè, il fosso, cioè già abbiamo là tutta la sistemata bene. Sì. Ma giù, a giù di tu, chi è travagliando in Chivi, da farsi la villa. La villa. Chissà se riesce ad andare a tirare davanti, sì. Solo una villa gli mancava. Cosa fa di casa? Lampazza, ma qualche cosetta si fa, si pare. Certo, ci mancherebbe. E certo. Ci sentiamo dopo, Luca. Via. Grazie, acqua dormito sì. Sto facendo cosa? Cosa sta facendo? Mettendo a posto roba qua. Io pensavo che era ancora meglio di un bocchito, gatta. Ma lo vedi di più questo bocchito? Sì. Io pensavo che era ancora meglio di un bocchito da domenica, gatta. Era poco manno questo bocchito, gatta. Cascetta manna! E le baschette grandi sono! Quanti ce ne sono 20? Io 8 mi ha detto! 8 qua ce ne sono! E mi ha detto che c'è per caricare e che li ha portate anche per gli altri amici. Uno più male l'ha regato! No, che le... Li dà gli amici da metà! Si ha pronti, si ha tagliati in tutta a metà! Quello è il contenitore grande! No? Quel passetto grande, finirà un bel. No, io ho preso, scusi, li ho presi io, cara. Ma mi ha giubilato zicco appena, non è che. Certo, non vi state sul bossetto, capito? Sicché cosa le bisognava fare? È pieno un bossetto in faccia, non ve la rubo. che quella giovata è saccadura? Come si è pieno? Già faccio la saccarasci, no? Ma non lo voglio attaccare, non si saccato la saccarina. E se no va bene, non mi arriverà lui, buonanotte. Piano piano mi metto da un po' freddo. Oh, io ho preso una vaschetta, perché io ho 8 prendi, e sono 20 mani. E non c'ho posto. Una puntita, li conti, o giù d'arriva, agli e prestemolo, li dai che bacianà. Oh yeah! Luca! Ma tu se la mangi a pensi, non pensarlo. Vabbè, a fare l'amore e a mangiare, cosa vuol dire? E te? E cosa vuol dire fare l'amore? Cosa vuol dire? Roba a mangiare. Una cosa da mangiare, anche quella, Piano piano, ma devi mangiarla, Fino da voi, bubbicenti. Il freezer mettila, mi sono sciguata. Oh no, non si guasta, già li metto nel fossetto. Belli, non li copri mai, ma Marina. Mai freddi, solo quelli piccoli. Buona rete, giovani. Questi sono grandi, cazzo, non posso dire un beato. Granchioni, non costano neanche molto. Questi apportatori sono una vaschetta grande, 8 ce ne sono dentro. E poi sono pieni, cioè, poi non costano molto neanche. Quanto costava? La vaschetta. 5 euro da una vaschetta, però per il gioco è grande la vaschetta. E ce ne sono 8 dentro. E sono buoni, li bollisci, poi li spacchi e li condisci aglio e prezzemolo e olio d'oliva. Li dai, basana, buona rete, insomma, anche i granchietti si minori, al manco mani. Vabbè, io quelli piccoli li ho presi giusto a fare la pasta con le cozze, me le danno molto a cuore. Non me li hai presi, grazie. O li prendo da Alice o se no da quello vicino. Non è da quello, no, da Alice. È da Alice. Alice che c'ha, c'ha il locale nuovo adesso, vicino al banco di Sardegna, che c'è a Pradani. Dopo c'è la casa dei che vendono le culle e seggiolini attaccata a quello. Ho capito. Ciao Paolè. Cenerentola la rivivia per la mamma, non Paolè. Ciao Paolè, sempre arrabbiato questo Graziano, ma cosa li fai? Gio Marì, secondo te, Graziano, ma è come quel cane che abbaia ma non morde, lui è così. Non morde lui, no, ormai. Ma non c'ho mai niente. Ma non è proprio così arrabbiato. Anche la giunta pugna a capo. Hai fatto bene. Il mattarello deve prendere il rugo. Comunque buonasera, ben sentito. E buonasera anche a Marina, alla signora Marina. Avvero, Mattarello deve prendere la testa forte però, avere un po' si ciamba di gabbo, gas. Allora, poi mi la posso quel ragazzo, gas. Ciao Giovanni. Buonasera. Paolè, tuo marito sempre a mangiare pensa, E allora, piatta e tu. E cura e tu, è amore di noi, cura e tu, la capisci, Luca, che è meglio. Ah, sono finti che si fa lui allora. E allora? Oh, boh, grazie, non va bene così, eh. Tu fai l'amore quando lo vai a mangiare allora. Non hai detto, hai detto che devi andare a Chilibani, e tu andi a Chilibani, che io non vi devo venire. E un cavallo, né un cavallo, mi posso e né nell'aio, ti posi tu e ti pigli e ti pigli una femmina e ti rabboni il vizzino a te. Entendi, entendi, Gio Maria, bubu, e tu si vanta, beh, visto, vai, la bui, tutto fasullo, Emmi. ma te l'ho detto, lui. Lui, abbaia, ma tanto sono morto, puoi essere tranquillo. Oh, yeah. Per carità. Ru, t'ho detto, metto la testa in giù. Già fortunato a cambiare su. Giovanni, a me non mi interessa nulla. Io mi voglio libera, cittadina. Brava, Ru, così è. Così deve essere. Senza pensieri, senza niente. Viva la vita! E allora, Iaru Greduia! Ciao ciao! Grazie, l'amore la fanno solo quelli giovani come me, tu ormai. Ormai è dato, capito? Ormai, boh, finito, stop! Oramari, e allora proprio, il dovere suo già lo fa, non ti preoccupare tu. Sì, roba te dove mai tu chi si vanta, E allora, oh, Intendi, Gio Mari, il dovere suo lo fa allora, Vai, tu ci vedi a Santa Rangia, di. E allora, Gio Mari, allora cosa mi hai detto? Mi, ti muovo, e non ti devi a me. Di Mascio, e io che mi comandi tu. E te, fare vedere i denti, Ru, fare vedere i denti. E allora, e così, Gio Mari, e Luca, bisogna cambiare estetica. Non ci compreso, è un tribigliano, infatti si, si crebue, o Mario se lo piglia un altro, se lo può pigliare, Oppure se morì e dammi più un'altra io, senza un busto di marino. E così fai la pensione, non so quanto mi convenga, vero Gio Mari? Ma, l'ho visto qui alla Zaeda, non ti preoccupare, mai la faccia a doia. Ma io la so contento, ma tanto gli sto con una stessa vicina e la pugno mi ha tanto. Così sì, allora va, vabbè, contento tu, contento tutti, no, Lu? Certo. Vabbè, se uno si decide di rifarsi la vita, cosa fa? Tanto, paghi chissà che siamo bassendi, pucci, voglio niente, va. Se uno si scherza nella vita. Vabbè, stavo già giuro un mito, Vabbè, stamattina presto da... Oh, alle 4 mi sono uscito. Alle 4 io buono, gira e ti gira lì. Lei ha voluto prendersi il treno, è andata a fare la tambulazione allo stato civile. Da voi sono casata a pigliarla. Da voi devi andare a pigliare a me. Sta tirando i travaglienti, a chi è da un po' guidare. Che va bella cavratturata, così che da voi mi ha già regalato la moglie nuova, sono andato a pigliare, e sono andato a camminare di soccuga. Niente la nigheggi. Muoversi anche, dai. Bisogna muoversi. Adesso appena inizia una bella giornata anche noi, delle passeggiate. Tipo ce ne scendiamo, cosa ne so, zona la rotonda, parcheggiamo la macchina, porto il cucciuccio e così lo facciamo passeggiare anche a lui. E passeggiamo noi e loro. E allora, e io Gio Mari, quando andiamo a passeggiare con Graziano, non posso la carrozzella, e non posso andare in paradoggia, Gio Mari. Senti, lo faccio per bene. La prima rotonda è vera, Gio Mari, tu da andare così. La peluca babuglia che c'è con un telefono, un attimino. Vai, c'è come la Mariella. Un cannone che vede la rotonda di verde, poi su d'ora. La dice, poi il maggio mi chiama se tu la minciare. Ammazzala pure. Oh, a farla pura. Chi su cannone che vede, mi si ha un bosco. So che vale se la vuoi così, ma c'è, boh, ma trova in campo, grazie, ma tu c'è mai che, boh. La giudice, posa di occhi, vedi, che ci fanno la fotografia, la moglie la chibusata, la dita, adesso che ha sento la miccia, ci ti spedisco. Lo trova tutto mosso, lo sa c'è più in cinese, ma è un poco bizzanti, si faria. Presenti mi dare un polpo, incullata mi la via con i tentacoli. E poi da come da, per la menata, c'ho male. Con i balletti. Guarda Calù, batti le immaginazioni, Luca. Allora, stavo piazzando l'antenna che mi ha chiamato Luca a fare una prova, il 26. Ma ci pigliate pure l'arcella e pigliate di raggio a Mari. Com'è, grazie, che eri un po' disattento. L'arcella anche mi ho preso, i giocoli. Oh, ah ma cavolo, sono lunghissimo che puoi giocare però, dopo la stricozzi. Allora, chi si ha le presemolo, sono belli buonissimi, condite bene, gli spaghettini. Che so, proprio, però sai che non l'ho mai mangiato, non l'ho mai mangiato. Ora vedi, io li pongo a moglio, in legame, e ti apri, li prego, li sciuco, e la poi li porto su, quattro settori. I battelli pure oh. E la poi li posso la pasta asciutta, gli spaghetti, ora vedi, esci, ni lunga, corda di violino. Caschi forse la giubbata buona lì, con i frutti di mare, grazie. La voce avevo fatto una cena in campagna. Beh, io dico che sarei leccato nei riti, sarei leccato dalla cosa, ma la giubbata un poco di roba, grazie, era più roba di mare che spaghetti. Ah, su, c'è dura, grazie, non ti dico niente. E poi l'ho fatta arrabbiare pure i spaghetti, capito? Ma c'erano tutti i frutti di mare! Aspetta un attimo, mi sto compagno di aspetta che entro subito! Fai che si buia gli occhi! Sto bene, guardi! Sei tutte con quella sera che gira, guardando la TV! Si sta bene veramente! Tranquillo, fai con comodo, mi raccomando, Chi è? Buonasera. Sheriffe, come si va? Ciao Mario, buonasera. Sono tutti sei qua. Oh, c'è Graziano che si è assentato un attimino. E anche Luca Montanaro. Ti sta arrivando alla tua zona? Va bene, va benissimo. Ok, dai. Ma sono con Gommino io sono, Io gioco con un portatile con l'antenna a vura, però. Va bene, a voglia. Io so che cameretta in occhi. Va bene, va bene. Ho costruito, ho sistemato una bazooka che c'avevo qua. Gli ho fatto tutto l'avvolgimento, 5,50, 2,75 per 2,75, l'ho fatta a 5,50 m. Tutta caricata, infatti la volevo provare al 23 a vedere come stava andando. Attento Franco, vita mia, cambio, cambio. Beh Luca, c'è il palito. Adesso provo, là. Il palito Graziano è da posto, mio marito. Un buchito, pure grande, che cosa farà di me? Ricracchia, assentendi, diventa un boffetto. Se l'ha pigliato la cassetta, se l'ha pigliato, Edo. Ma basta a farla, nemico, un buchito, esita, che arrisa ne sarà. Stavolta manca drumi di dieci. E qua ci si bocchito ma denti va maduri e lunghi gatti, ma non si gatti allo branco. va a pirare la cosa, a burro, me ne messo come si chiama, ragazzi. Ah, ma ciao, ti si regge, già detto. Fassi beh, oh, yeah. Sto già dritto la parete, a tutti, me lo pei. E cos'è che è il bozzo dei granchi? Ma non tutti, ci sono manni. Quattro. Fammi la foto, grazie, mandala su WhatsApp. Aspetta, ti mando la foto, aspetta. Sì, comunque il numero di Gio Maria l'ho perso, perché l'altro telefono l'ho rimandato in assistenza, era lì memorizzato. E l'ho perso, perché ho cancellato tutto. Ho dovuto resettare, sennò c'è una roba mia dentro. I numeri ho perso, mi sa che ci ho perso pure lo 2, grazie, rimane, mandamela a vedere, vediamo. Aspetta che l'ha fatto. E oppure ho cambiato il telefono da uno all'altro, dalla scheda piccola alla scheda grande, che a te e mi sono sparito un saccaccio di numero, lo sai Luca? Perché sicuramente avevamo memorizzato il telefono, anche a me. Boh, infatti strano ciò che sono spariti. Boh. Evidentemente non era in memoria, capito? Allora, sicuramente. Anche a me, io avevo 500, adesso me ne sono rimasti la metà. Bah. Cazzo. E aveva fatto avere questa fotografia, grazie a... Come si... Come si chiama, cazzo? Il Bau Bau. Mi te l'ho mandata, Luca. A Bari da Zò, 7 vini giù la vaschetta, non 8. Ma sono un piccolo di compareggio, dai. Se sono buoni, dai, mi attento un attimo, arrivo subito, Buoni e pieni burro, vedrai che c'è quello quasi cosa, ma cazzo, ma ormai con mangi granchi. Graziano! Ciao Bacchigio, ben sentito! Ciao Graziano, ben sentito anche a te dopo 2 secoli, grazie. Ma che fine hai fatto? Non ti ho copiato che mi stava parlando mia moglie, cosa hai detto? Dopo 2 secoli ti sentivo, che fine avevi fatto? Ero impegnato, stavo facendo delle cose. Ah, capito, impegnato, per quello non accendo la radio. Anda a Benevento. Ma chi è Graziano? Non lo sento io. Domani mi ascolti, Graziano. Un po' male ti sento, Bacchi. E come mai male? Cosa c'è di male? Dimmi. Prova di nuovo, forse era spostato il punto. Va, prova. Adesso come mi senti? Adesso meglio. Come prima o peggio di prima, degli altri giorni? Oh, bene ti sento. Aspetta, mi devo pigliare la bacchiglia che faccio la giusta. Prendimi anche una per me, come già tu sei un buono. Una pena, di quelle della farmacia. Ah, di quello lì, non è malato lo sciroppo, ma non fa di nulla. C'è anche lo sciroppo, ma faccio la giusta, sì. Domani mi piglio l'antibiotico. Sennò non mi basta più. Sai, Rubighere, Papassatti. Ciao Maria, avanti. Papassatti, devo che sei l'aino. Eia. Saluta Babacchisio, perché io non lo sento, Boh, siamo andati peggiorando con Babacchisio, Bacchi, non senta Gio Maria. No, non lo sento per niente, ma con Colmino, Gio Mari, non ti sente Bacchino? Nemmeno io lo sento, non lo sento io, no. Bacchi, non ti sente neanche Gio Maria? Dite ce lo butti con la radio. Non lo senti, ma col gommino sì, anche tu Gio Mari. Eia! E la carina l'hai tu che ti intendi ruma stesso? Ma da Edu che abbiamo fatto una santenna, Edu. Bacchisio, mettiti l'altra antenna, non ti sente se no. Ma lui è col gommino, capito? Lui è col gommino, io no però. E non posso andare con l'altra antenna, sono giù. Non può andare con l'altra antenna, Gio Mari, perché ce l'ha giù. Allora, siamo sempre alle solite, boh. la via è già da vino. Cosa ce la boccia giù, dove ce la boccia? Cazzino, io ho la figlia di un agnolo. Ma chi c'è? Figlia di migrazia. E pigliati questo benedetto filo e mettilo, così te lo porti giù o su, dove sei? Su adesso. Giù sono adesso, giù. Ma ieri mi ascoltava e oggi no. Ma Maria ha detto, ma forse c'aveva l'antenna esterna ieri. E oggi è col gommino. Col gommino anche ieri sera era, mi ascoltava. Io a lui no, ma io lui a me sì. Ma Maria ha detto che arriva la sera, lo ascoltavi ieri col gommino. E adesso non lo sento, cosa mi dica? Io sono alla stessa posizione di ieri sera, così che è la parte sua che lo sta andando, capito? No, non arriva qua. Ma chi è nello stesso posto dove era ieri sera? Come mai allora oggi non ti sente? Se ti senti un bagliere vuol dire c'è qualcosa da te. Da me c'è qualcosa che ha spostato l'antenna di uno 20 centimetri. Ha spostato l'antenna di una ventina di centimetri e quello lì fa tanto, adesso è a buio, se non l'avrei rimessa d'opera ieri. Questo io adesso, se poco fa si sentivo male, se lo sposto da qui di 10 centimetri, mi no assai, non ti intendo, ti intendo male. Io l'ho spostato di una trentina di centimetri ieri l'antenna, e infatti quello lì è. Giomari, perché ieri quell'antenna l'ha spostata di 30 centimetri e allora è per quello che non lo senti e domani la dovrà funi unita. E infatti, confia la metà d'opera ieri così che almeno lo senta, sennò è un macello. Non arriva nulla, nulla, non è un segnale, nulla, nulla, nulla. Non si può fare nulla. No, adesso non c'è andare sul muro a farlo, domani lo fai, è già buggio, domani lo fai. Quando rientri, che c'è luce ancora, lo sposto da vivere, non si ha la luce però, al buio non si salire sul muro. Chi è che vuole entrare avanti? Domani, domani ha detto già l'hai posta unita. Io vi ascolto magnificamente bene tutte e tre. Chi è questo signore? Lui, tu sei vicino a Bacchisio, tu sei più vicino di me a Bacchisio, direttamente alla zona tua dove sei adesso, lì. Però da me c'è qualche palazzo che le impedisce di arrivare, capito? Tu sei sul monte. Aspetta, chi è che stava parlando l'altro? Giovanni, tu eri? Eia! Non si capiva, non si capiva, non so cosa ha detto Bacchisio, ripeti Bacchi. Sì, al monte oppure sia alla Tedolce. Ah, sono qua vicino a te, dai. Al monte mi sa che non arriva nessuno, Nessuno, mi sa l'unico che arriva è Gio Maria. Se arrivo da Claudio che a Serra Secca non arrivo al monte, mi sembra strano. Ma io un'antenna esterna non ne ho, Claudio sì. Cosmo, tu sei con l'antennino in casa, ho capito. Io ho tenne stelle o ne ho gommino e basta, non arrivo a casa. Solo Gio Maria, lui mi ascolta a malapena. Gio Maria è più libero, capito? Gio Maria è più libero, grazie a me, in un buco io sono in un posto. Capito? Avanti, Graziano, riprendi. Oh, ma non arriva a casa tua, quel gommino. Oh, Luca. No, tu no, Graziano, Luca arriva. Anche lui così così, dai. Ma io sono, te lo sai la mia posizione com'è. E allora bisogna che provo con quella esterna che c'ho, con quella mi senti. Io a casa manco lo so. Ma neanche con l'antenna esterna mi senti a casa. Ah, mi sembra qua arrivi, manco con l'antenna esterna. Che vita, boh. Eppure da casa tua nella 27 arriva a bomba. E che domani non ti devi sentire con l'antenna esterna. Secondo me già ti sento. Bisogna fare una prova. Sono due due frequenze completamente diverse, capito? E la figlia nessuno dai da casa sua, nulla di nulla. La seconda volta perché lo lascio qua, motivo c'è, no, perché non vi sento. Beh, ma quanto nello, hai provato? Con quello, lui forse l'unico che arriva è Claudio e basta, vabbè Claudio, c'è l'antenna, capito, c'ha quello che ha, Claudio sì, sicuro. Beh, eppure qualche giorno proviamo, me lo dici, e metto quella esterna a vedere, tanto per fare una prova. E magari tu arrivi, io da te non arrivo, capito? È così, eh. Vabbè, ma mettendoti un antennino esterno attaccato al palo di quella che c'hai, dovresti arrivare anche tu. Ah, niente antenna esterna, non è buono, non me la fottiamo da avere antenna esterna. Andiamo così, grazie. Basta e avanza. È così, col pommino per questa frequenza viaggia in orizzontale, invece la 27 fa a salto, è quella che supera gli ostacoli, invece anda in orizzontale, se trova un ostacolo si blocca. Aspetta, l'ho copiato che mi stava parlando mia moglie. Ebbene, e allora? Attacci, ti sento adesso, grazie. La 27 va a salto. E questa viaggia in orizzontale, dunque se trova l'ostacolo la blocca. Ah, così è, ma vabbè, tutto non si può avere nella vita, la pigliamo come viene l'onda. Luca la prende di schiena, vero Luca? Di fianco o di schiena? Grazie, guarda che non mi ha mandato niente, foto non me ne ha mandato, chissà che le manda Luca Flipper tu. Ehi, allora aspetta se la manda, allora no, mia figlia te l'ha mandato, aspetta. Forse l'ha mandato a me, invece me l'ha mandato a te. Guarda, ti ho mandato due messaggi, dai, ti trovo il tuo numero ancora. Il tuo è rimasto nella scheda allora, sicuramente, ma quello di Gio Maria non c'è più. Ehi, you. Quello di Gio Maria non c'è, non è rimasto, era nel telefono memorizzato. Però questo fatto che tra Gio Maria e Battisto ha una fucilata, non si sentono, boh, che strano. Sì, mica te l'ho mandata. Giganteschi sono, 5 euro poi, 7. Bisogna assaggiarli, buoni sono. Buonissimi, e so pieni, senti a Luca, a te. Caranello, caranello. Ah, un bel anno mettere un 4, no? Tanto non mi piace. Intesa? Ehi, hey, dove li dai? No, vabbè, 3 o 4. Ma chi? Ehi, ehi, stavo guardando il coso della partita, grazie. Che c'è la partita alle 9 meno un quarto. Ah, no, stavo... Siccome ho mandato una foto a Luca... De granchi, grande. E di gioco puttana va. Davvero posso la liada. Olio d'olive e aglio e prezzemolo. Tagliati, no. Buona rete, giù. Io che andiamo, grazie a Divino. Io che andiamo. Luca fa, Luca Guppa mi ha detto, ancora tu. Non mi direi 3 o 4, tanto non mi piaccio. 3 o 4 per dargli una dozzina, 3 o 4 no, una dozzina mi dai. Ma per quello che costa non già si buoni il bigliano, non sono cari qui. E poi sono pieni, e poi mi ne sono rimasti due bascoli. Gio Maria stamani mi ha domandato un'ira e mi ha giudito, era pieno, ma si andava a finire. No, a parte con i tizi di accomissionato, deve caricare gli affidati. A chi stasera era abbigliati, grazie. Ci va a dare di dire un bel. Una macchina orgoglia. Oggi va via rovescio, meraviglioso. Un misto, capito? Erano i mostri, noi eravamo rovescio, mostri erano. Un profumo di mare, no, buona legge, l'odore proprio del mare, bello, eh. Sono lì, là, li so come tenni, so, Rubio, arancione, arancione sono di vincenti. Chi sono amico mio, la macchina Varanto va, io prendo un bescio. Sì, la macchina Varanto va. Grazie! Sì, un amico mio, è Pasquale si chiama. Non so come si chiama, io lo trovo sempre. Questa mattina mi ha visto che stavo tornando da Grazia, ma ho detto un bescio, ero buio, ho detto un po' mi... Graziano! Sì, dopo hai preso niente, faccio un misto. Ah, ecco, dammelo. Ah, ecco, abbiamo dei saraghi, dei pagetti, ma meravigliosi. Vediamo un po', forse c'è Giomaria. Giomari? Sto chiamando la Graziana, ma sentite, c'è qualcuno che sta parlando e non mi sente. C'è la Bacchiso, Giomari, secondo te arriva più forte di te. Quando parlate tu e Bacchiso non si capisce niente. Avanti, Graziana, mi sta chiamando Giomaria. Vieni avanti, c'è la Bacchiso parlando, è per quello che non passate, perché lui è più vicino. Ho detto, quando li hai presi, stasera? Stasera, ne erano rimasti due vaschetti, li hai tutti arralpati. Adesso stasera doveva mettere quelli più grandi, però sono spaccati in due, anche se sono ben mani. Sono buoni, ma stessa, a che quelli io prendo? Solo non c'erano quelli ancora perché li doveva scaricare. Ma ce li hanno sempre quelli là. Ho grandi o più piccoli, va bene ugualmente là. Quei grandi sono spaccati in due, va bene ugualmente, capito? A voglia, allora via cazzo sono pieni, quando li fai. Eia. Lucia, va, assaggiamo e vediamo un po' se piace o no. Sono come quelli piccoli il sapore, solo che sono più pieni. Fai il gusto di mangiarne un bel di mulà, invece c'è un ghisci minoretti che c'è male. Lo botti bene, mino, che sono buttati, sono diventati arancione. Poi vai, vedi i cruci, io li taglio con lo schiaccianucci, anche 30 e mezzo pieni. Ma i buoni tre o ripacchi prima? Un taglio gli fa col coltello in mezzo, così il botti di calda e buttani così, cado le sei cucine in tre, in questi, ma quello grande lo spacchi, questi più piccoli così, così messi in piedi dentro la pentola, poi una volta gli sono buttiti, li rivoghi, li scoli, pigli un cucchietto, la forbice, gli sciamanna, li tagli e li condi e li dai in basana col condimento, aglio, prezzemolo le olio d'oliva e la metti le mani e la poi vedi che sono buone. Anche ripeto, non l'ho mangiato mai, che era per la prima volta, devo vedere se si vediate lo porerò, capito? Ma sono buoni, Giovanni, ti attenti, aiutai. Sono buonissimi, ma sono come sapore come quelli dei piccoli, solo che ci sono manni, sono pieni, copri le zampe, io che si cruci, li taglio con la schiaccianuccia, anche se no come si può tagliare. E adesso sono pieni. Posso immaginare, allora vediamo. Ah, te lo fretta di tu. Dice nel bar il nome di Biaggi, non me, boh. Quando li voti, li voti bene, poi li scoli e li tagli con la forbice. Si fa una forbice in mano, quello che c'è di buzzà, una ruba. Li tagli e li condi. Gli ho preso le olio d'oliva, li riveri da che basana. Che si prendono tutto il sapore dell'aglio, per sempre del lusso. Poi lo vedi. Vediamo allora. Proviamo, grazie. Riprendi. Fai riprendere la Bacchiso, tanto siamo io e tu, lo sentiamo, Gio Maria non lo sente. Riprendi la Bacchi. Io. Gio Maria non si sente. Con mio lui non si sente. Aspetta. Lo sentiamo. Come? Grazie a Dio ci mette la carta carbone nuova Gio Maria. Io ho capito, ma cioè Prima vi sentivate, adesso non vi sentite più, come mai? Adesso sto andando con l'antenna piccolina. Dove era ieri l'ho spostata di 30 centimetri, neanche 30 centimetri, e non si sente niente. Domani la devo riportare nel punto gra ieri. Ho capito. Perché ho detto, cavolo, si sentivano sempre. Adesso non si sentono. Sta frequenza è un po' strana. Basta un coso, un nulla, non sente più piccolo. Un nulla, guarda, adesso cosa è? Mezzo giro di palo devo fare, perché adesso è puntato verso di te. La ritorno indietro dove era ieri sera e sento tutto. Senti qualche amarino? Sì, ma infatti. Vabbè, allora nel punto dove sono io, grazie praticamente dietro di me. Poi tu sei frontale, diciamo, dai, siamo da questa parte, siamo frontali, Gio Maria lo stesso, Luca lo stesso, tutti vicini siete, dai. Avanti, grazie a questi granchi, cucinato hanno. Miglio, mi sa scolare, adesso li lascio raffreddare un bel archi bruciano. No, nel frattempo ne sono rimaste un paio di antunne. Le cucino. Al bollici solo. E un po', e poi E gli aggiungi con gli altri. E a mezzino la fatti giusti e fine li vado a fare, sennò da buchi si guardano, fatti. Fatti mangiato! Cosa hai mangiato, fai bene. Ma la reggi so, a mezzo dimmi, con la riva, Luca! Ehi, avevo mi scendi, aspetta. E allora, Giammari. Dimmi tutto, eccomi qua. Dimmi tutto. E non arriva per niente, non lo senti mai nulla, pure se ti sposti tu, a Bacchizzi. Sono a parte dietro, grazie, sono a parte dietro. Davanti c'è troppo freddo lì. E sono dietro, sicché per quello che non lo sento, capito? Ma anche lui. E lui ha spostato l'antenna, prima ieri lo sentivo e adesso l'ha spostata e non lo sento. Ma domani se la rimette dov'era, così è Bacchi. Io domani la riporto dov'era, la torno a spostare. Perché Gio Maria è dall'altra parte, dietro, e da lì non ti sente, invece dov'era ieri l'antenna ti sentiva, tu rimetticela lì. E poi se ti sentivano tutti anche l'hai pulsata l'ho anche compreso. Pensavo di migliorare, grazie a. Pensavo di migliorare la situazione, invece è peggiorata. No. Tu domani buona sera là, unita. Così ti sente anche Gio Maria. E vabbè, le prove bisogna sempre farle. Luca, a me piaciuto di sì. Ma non c'era Califano, il Parigi chi è? Io l'ho sentito quando l'ho acceso, poi non l'ho più sentito. Ci è che ha sarrato. No, ma il Parigi è Franco. Franco Califano, sparito, Bacchi. Cos'è Grazia? Bacchi. Ti ho detto, cos'è che hai detto? Non ho capito. C'era anche Franco Califano poco fa. Non ho sentito, nada, non ho sentito. Non l'ha sentito neanche Bacchizio Giomali. Io l'ho sentito di sfuggita e poi non l'ho più sentito. Avrà chiuso. Stava parlando con Luca e dopo non l'ho più sentito. A me Luca Guffa mi ha chiesto dove li ho presi, Gio Mari. Avrà giudito, va domani a andarsi in biglia. Va bene. È da lì c'è. Non ve l'hai detto, è da lì c'è. Secondo il gaccheranda l'accompagno io, che lui non c'ha macchina. E allora? allora diglielo, adesso non c'è, cioè mi ha al telefonino su WhatsApp, me l'ha chiesto. Fagli uno squillo e diglielo, magari la cuffia di due si ribiglia. E tanto che è di buon, sono ben famiglia, con bene ne chissi. A chi? Ma va, io lo facevo la bassa asciutta, cazzo. Lo facevo la bassa asciutta a passaggiare, capito? Prima. Sono buono il burro con la bassa asciutta. Dimmi poi va con il burro con il sughetto. Le tagli a chi sono manni. Le tagli, la poi si ribono in mezzo al sughetto e si può fare la burro, la bassa asciutta. Oppure in verre così e alle prezzemole e olio e ti fai alle prezzemole granchi e spaghetti. Ma lo si possono fare anche con le cipolle? No, io con la ziota non la ci mai fatto. No, non fanno. Ma lo fa con le cipolle? Mi sembra che avevo sentito che sono buone anche con le cipolle. Io non la ci mai mangiato con le cipolle. Con il sugo sì, buttiti come i minori, là, poi ce li metti in mezzo al sugo e li cucina insieme al sugo. Così già sono buoni, lo sai, ma però con la ziota, Vabbè, io l'ho sentito. Vuol dire che con le cipolle non le facciamo. Adesso l'assaggio con il sugo, faccio il sugo per i spaghetti, capito? Con il sugo sì. Al piccatore bisogna domandare come si può cucinare. A chi? A cacchio piccatori. Il piccatore è chiarusani come si si cucina. Tu non lo sai, sei piccolo, lo sai come ti sapori e come te lo sapori. Me li posso fare la massima lita. Per il mondo, da me li conto, le prossime le uso da riva. A me mi piace un bel così. E quel sugo non andavi la bassa asciutta? Andavi sì, alla Puglia. E allora, così che prima le facciamo così, questa poi effettivamente, e facciamo così, e vai a prezzemolo. Aspetta un attimo, che mi c'è il baule. Va bene, dai, ci sentiamo domani, Giommarì. Chiudo. Ciao Marchisio, ciao Luca e ciao che è in ascolto. A domani. D'accordo, va, grazie. Sentiamo, a domani. Buonanotte. Buonasera, chiudo anch'io, vai. Ciao Marchisio, le senti, chiudo. Ciao Luca. Ciao a tutti e due, buonasera da Marchisio. A domani, là. Ciao Marchisio, ciao Giommarì e ciao Luca e ciao che è in ascolto. Tutti molti siete. Lui se ti chiamano, sparisci. A un certo punto sparischiamo anche noi. Giovanni, io ho detto che mi stavo vestendo, poi mi ho fatto una chiamata a un amico, siccome gli ho riparato un televisore ieri, volevo sapere se stava funzionando, capito? Tutto qua, era al telefono. Beh, ho detto tutto ok. Sì, c'è un po' una bassa, un po' strana, un po' lunatico, no? Ma c'è per i cusi, mi potete riparare i cosi se non funziona. Allora, ho anticipato io, ho chiamato. Il televisore ha i suoi anni, la scheda di alimentazione ha lavorato abbastanza, che ha detto che è sempre acceso. Che cosa faccio? Allora, non funziona. Hanno chiuso tutti, dai, ero lui. Ma chiuso ha chiuso, grazie alla chiuso, che infatti anch'io stavo chiudendomi quando hai chiesto. Ma chiuso anch'io, dai, così che mi guardo il televisore, ok Lu, ci sentiamo domani eventualmente, ok? Saluto Riccardo e ci sentiamo, dai. Sì, ciao, anche tanto qua è già pronta la cena anche. Ciao Giovanni, altrettanto, dai, ciao domani. Attenzione Bacchisio. Ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu ciucu Pomponio, amore? Pomponio, amore? Lello, amore? C'è nessuno? Toc toc. Prova. C'è qualcuno? Avanti. Avanti che vuoi entrare. C'è qualche stallone stanotte in attivo. Avanti. Che bambini di cazzini. Non c'è nessuno? C'è qualche bel mattione a molti conti? Avanti che vuoi entrare con buonasera. Come amore? Ehi, c'è qualcuno? Riesco a parlare con qualcuno? Cosa vuoi, ciccia? Sì, amore. Dimmi, ciccia, cosa vuoi? Che dura ce l'ho. Dai,